E come annunciato, siamo in corrispondenza con Genova, con il porto di Genova, e al telefono con un compagno dei Cobas, dei portuali. Ciao. Mi senti? Ciao, buongiorno, guarda, io sono Luca, ma non sono dei Cobas. Ah, scusami, scusami. Sono affacciato per i Cobas, sono lavoratore del porto di Genova. Scusa, ma sono i cattivi appunti della rubrica. E vabbè, un lavoratore del porto di Genova è la persona con cui volevamo parlare. Ciao. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao. E niente, intanto se ci vuoi raccontare stamattina quello che è successo dopo, insomma, dopo ieri, insomma, quello com'è adesso, sì, la situazione al porto. Guarda, cercherò di essere il più sintetico possibile. Stamattina le segreterie confederali con sindaco e istituzioni varie avevano organizzato in una piazza del centro di Genova la commemorazione ai caduti sul lavoro dell'altra sera. Questa è stata, diciamo, ha preso una piega differente perché un gruppo di lavoratori del porto ha chiesto di poter parlare leggendo un documento scritto a mano, voglio dire, durante appunto la giornata di ieri, quindi del blocco dei varchi. Nonostante il sindaco della città sia stato molto gentile e si sia reso disponibile, lo spazio non è stato concesso a questo gruppo di lavoratori. Al momento che prendeva voce il tale Don Milani, una cosa del genere, non ricordo, comunque un prete, i lavoratori ovviamente sentendosi esclusi e cacciati per l'ennesima volta dalle istituzioni tutte, hanno preso comunque in maniera, voglio dire, tra virgolette, forte la situazione in mano e sono riusciti a esprimere quello che è il punto di vista da parte nostra, di lavoratori, su tutto quello che sta succedendo, compreso purtroppo quella che è stata una tragedia, quella dell'altra sera. E niente, il punto di vista nostro sostanzialmente poi è che quello che è successo l'altra sera, anche se voglio dire non è inerente a quelle che sono le operazioni di carico e scarico delle merci nel porto, però è purtroppo una tragedia che secondo noi è figlia della produttività che continua a schiacciare vite umane senza rispetto di nessuna regola sul posto di lavoro. Ripeto, tantomeno senza rispetto della vita dei lavoratori e delle lavoratrici sul posto di lavoro. Sì, infatti voglio dire, la stampa stamani, la televisione eccetera, tutti ora discutono molto di questo, l'avaria, errore umano eccetera, però veramente quasi da nessuna parte si va a vedere quali sono le condizioni in cui si lavora al porto di Genova o negli altri porti e come anche è cambiato il porto dal punto di vista strutturale, come sono cambiate le navi che sono sempre più grosse e quindi nelle difficoltà anche logistiche di un lavoro che immaginiamo abbia, come dire, tutta la pesantezza dei tagli economici, poi degli armatori eccetera, come in altri settori che rendono complesso, insomma, il lavoro. Sì, guarda, hai centrato, direi che tra virgolette, se posso usare il termine centrato, la situazione. Cioè è chiaro, siamo consapevoli noi per primo che un'operazione di voglio dire del genere non ha nulla tra virgolette a che vedere con le nostre operazioni di sbarco e di imbarco delle navi, fanno parte della comunità portuale tanto quanto noi. Dopodiché ci rendiamo conto però che è quello il problema, noi ce ne rendiamo conto, purtroppo ce ne siamo dovuti rendere conto da tanto tempo a questa parte, voglio dire, perché ora siamo qua a dover ricordare purtroppo le vittime di questo incidente, ma è dal 2007, da prima del 2007 che la gente in porto, purtroppo in porto come negli altri posti di lavoro, continua a morire e il problema è questo, cioè un continuare, voglio dire, ad andare avanti, nel senso, senza, da parte, voglio dire, dei padroni e delle imprese, senza rispetto di nessuna regola di condizione, voglio dire, umana, perché poi qua entreremo in un discorso che ci vorrebbero altro che 5 minuti, ma quando una persona comincia a dover affrontare nell'arco della giornata 16-18 ore di lavoro, perde di lucidità, perde, voglio dire, di quell'attenzione che invece con il lavoro che facciamo anche qui in porto, voglio dire, dovremmo necessitare sempre e comunque per preservarci da eventuali da eventuali incidenti, che comunque tanti continuano a ostinarsi a chiamarle morti bianche o incidenti sul lavoro. Noi siamo consapevoli che non sono morti bianche, sono omicidi, perché nel momento stesso che mi rendi precario il modo di lavorare, mi rendi precaria la vita, mi stai ammazzando, e quando muoio non si può chiamarla una morte bianca o un incidente, bisogna chiamarla con il suo nome, è un omicidio, voglio dire. Riferito all'altra sera, non posso entrare nella dinamica della situazione, perché non sono né un pilota né un rimorchiatore né altro. Posso dirti che è una manovra che qualcuno dice che è sempre stata fatta. Guarda, lì entriamo in un discorso che anche questo necessiterebbe di più minuti, perché entriamo in un discorso dove comunque resta il fatto che la nave è di proprietà di una famiglia che, nonostante venga decantata ancora ieri dalla Camera al Senato, dopo che il neo presidente dei trasporti ha relazionato appunto sull'accaduto, poi gli interventi dei vari gruppi parlamentari sono stati chiari, cioè nel senso che, anzi, chiari e strumentali, perché non soltanto si è voluto dipingere il porto di Genova come fiore all'occhiello della portualità nazionale, anzi si guarda già avanti, perché se fosse, voglio dire, servito anche da quelle grandi opere, vedi per esempio la TAV, che non riusciamo a costruire, sarebbe anche meglio, voglio dire. Abbiamo pianto addirittura il dolore della famiglia, del proprietario della nave. La famiglia in questione è la famiglia del Messina. E chi conosce un po' di storia della portualità di questo Stato, di questa Italia, credo che sappia di chi stiamo parlando. Con questo io non è che sto puntando il dito sull'accaduto nella fattispecie dell'altra sera, non saprei dirti di chi è la responsabilità, almeno al momento. Non sono nemmeno uno che fa indagini, voglio dire, vado un po' di stomaco e abbraccio. Sì, ma comunque insomma l'armatore Messina, dicevo, l'armatore Messina non è uno qualunque, insomma, nel senso che ricordiamo, lo ricorda anche in parte la stampa stamattina, che si tratta sempre della stessa, appunto, dello stesso armatore che è stato coinvolto nelle inchieste sul traffico di rifiuti tossici e poi insomma e anche altre navi di questo armatore. Per esempio mi vengono in mente due giornalisti che non ci sono più, Ilaria Atti e il suo compagno di lavoro, di cui adesso non ricordo il nome, tanto per capirci. L'argomento è questo, secondo quello che si cerca di capire in questo bel mondo, in questo bel paese. Ora, non avviene male, nel senso, non è che per timore o per chissà che cosa, ma credo che queste cose vadano discusse e vadano discusse da persone, voglio dire, magari più preparate sulla cosa. Però chiaramente, diciamo che se tra qualche settimana venisse fuori che le condizioni di sicurezza, a proposito con la manovra, quelle manovre non fossero rispettate, diciamo che noi siamo tra quella parte di persone della comunità portuale che non se ne meraviglierebbe, purtroppo. Tanto per capirci, non più tardi di 3 settimane fa lo stesso armatore ha chiesto alla comunità europea per l'ennesima volta che i servizi tecnico-nautici, in questo caso rimorchiatori, piloti e compagnia cantando, nella portualità italiana vengano soppressi una volta per tutte, tanto per capirci. Ora, io non vorrei sembrarti scortese, ma nel frattempo, dopo tutto quello che è stato, vado a fare la mia seconda, come lavoratore portuale, la mia seconda giornata del mese, perché nonostante dipingano questo porto come fiore all'occhiello della portualità nazionale, dall'inizio del mese la mia seconda giornata la faccio oggi e sarei un po' in ritardo, mi tocca pure essere puntuale. Io però vorrei ringraziarvi dello spazio che ci avete concesso. No, grazie a te, ci risentiamo. Nonostante la fretta, però ad essere stato almeno utile alla causa, alla situazione, e niente, tutto lì. Grazie ancora, ciao. Grazie a voi, ciao ragazzi, ciao.